Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Posso dire solo che stiamo cercando di prepararla al meglio, come abbiamo fatto con la Spagna. Sicuramente sarà una partita più difficile, più dura, perché comunque sono i campioni del mondo in carica, sono una grandissima squadra. Però anche noi siamo consapevoli del nostro valore, delle nostre qualità, e penso comunque che la forza del gruppo, quella che abbiamo messo in campo contro la Spagna, possa mettere in difficoltà anche la Germania. E vabbè, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è il tormentone ormai di questi giorni. Sapete, la partita Italia-Germania, che si giocherà sabato, in realtà è iniziata da diversi giorni. Questi sono i calciatori, per esempio, che si caricano giorno per giorno, no? Quando sono intervistati nelle conferenze stampa, eccetera. Questo era De Sciglio, per la precisione. Ma poi ne parleremo naturalmente qui durante Effetto Notte, anche ci collegheremo con la Francia. Tra l'altro è iniziata proprio adesso il calcio d'inizio della partita degli Euro 2016, Polonia-Portogallo, quindi 0-0 per il momento, essendo appena iniziata. Poi ci collegheremo, vi dicevo, direttamente con il nostro inviato in Francia, però prima vari altri argomenti. Torneremo sull'attacco a Istanbul, tra l'altro considerato uno degli aeroporti più sicuri al mondo, più sorvegliati, pensate, con quello che è successo. Ecco, su questo, se volete le vostre osservazioni, potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, no? Sempre forti le sensazioni quando succedono queste cose, le impressioni personali. Però poi l'argomento in realtà che vi sottopongo è un altro, che non c'entra niente, per i vostri messaggi, anche se sapete, se state naturalmente sui temi del giorno, potete scrivere ovviamente le vostre riflessioni. Poi invece ci occuperemo anche di questo ultimo naufragio che c'è stato, in cui sono morte 10 donne. Cercheremo anche di capire come lavora la Guardia Costiera in Italia, quali sono le sue funzioni, le sue attività, e anche che cosa succede quando qualcuno lancia per esempio un segnale di una richiesta di soccorso. Molti altri argomenti, vi dicevo, anche per quanto riguarda il calcio. Quello che vi chiedo questa sera è, dopo le polemiche di questo inverno sugli Oscar troppo bianchi, cioè Oscar dati soltanto ad attori bianchi, pochissime donne fra l'altro, anche questa è stata la lamentela, la Francia ha deciso di mettere nel proprio star system, nei media, nella televisione, diciamo, più uguaglianza, più rappresentanza, come si può dire, multiculturale in tutte le sue sfaccettature. Allora c'è un progetto di legge allo studio dell'Assemblea Nazionale del Parlamento francese per promuovere la presenza della diversità, perché secondo un recente studio del settore audiotelevisivo in Francia, le persone percepite come non bianche in televisione sono appena il 14%, una percentuale che cala allo 0,4% per quanto riguarda i disabili. Quindi la Francia vuol correre ai ripari, dice non si tratta di quote ma di rappresentare appunto questa società multiculturale in tutti i suoi aspetti. Vi sembra un'iniziativa giusta questa? E voi, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, che percezione avete e riterrete anche applicabile in Italia una cosa di questo tipo? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre voi riflettete, comincio a raccontarvi come sempre la giornata. Banche. La Commissione europea ha dato il via libera a un piano di sostegno pubblico alle banche italiane in caso di turbolenze dei mercati. E il francese Pierre Moustier è il nuovo amministratore delegato di Unicredit al comando dal 12 luglio. Gran Bretagna. Boris Johnson, leader della campagna per la Brexit, non si candida alla successione del dimissionario primo ministro David Cameron. Italicum, 5 Stelle contro Renzi e un baro, dice Grillo, cambia le carte in tavola. L'attentato a Istanbul, il bilancio dei morti è salito a 43, 19 dei quali stranieri. Blitz intanto nei covi dell'ISIS, 13 arresti. Immigrazione, un gommone affonda al largo della Libia, morte 10 donne. La Guardia Costiera ha salvato 107 superstiti. L'omicidio di Yara, attesa per domani la sentenza, Bossetti rischia l'ergastolo. Calcio, europei in campo, la sfida tra Portogallo e Polonia. Chi vince sarà la prima semifinalista. Intanto Ibrahimovic conferma, giocherò nello United. Vi dico già che a 3 minuti dall'inizio la Polonia ha fatto un gol sul Portogallo, ecco, giusto per aggiornarvi in tempo reale. E partiamo quindi, vi dicevo, dal via libera della Commissione europea a un piano di sostegno pubblico alle banche italiane da attivare se necessario per fronteggiare eventuali turbolenze dei mercati. Via libera della Commissione Europea a un piano di sostegno pubblico per le banche italiane attivabile dal governo nel caso si rendesse necessario per fronteggiare eventuali turbolenze sui mercati. La mossa comunitaria arriva su esplicita richiesta del nostro paese. Nello specifico si tratta di uno schema di garanzia statale valido fino alla fine dell'anno, il cui valore si aggira sui 150 miliardi di liquidità. Particolare importante, si tratta di un programma preventivo di supporto destinato solo agli istituti di credito solvibili. E nota a Bruxelles, non ci si aspetta che Roma sia poi costretta veramente a usarlo. La notizia fotografa alla perfezione il periodo di instabilità finanziaria seguita al referendum britannico. L'incertezza dopo il voto sulla Brexit si farà sentire sulla crescita, rallentandola soprattutto in Gran Bretagna, ma con ripercussioni anche in Europa e sull'economia globale, così ha dichiarato l'FMI, aggiungendo che ciò potrà frenare la crescita nel breve termine. E per quanto riguarda l'Europa, il fondo sostiene che è essenziale continuare a rafforzare le banche continentali, in particolar modo per risolvere il nodo dei crediti deteriorati. The ball is now in the camp of the United Kingdom. Sulla Brexit la palla è nel campo britannico, ripete intanto allo sfinimento il portavoce della Commissione Europea Skinas alla vigilia dell'avvio di una nuova presidenza semestrale in un'unione ormai virtualmente a 27. Tocca alla Slovacchia, il cui ministro degli esteri Lajcak ha subito confermato il primato del Consiglio Europeo nel condurre negoziati con Londra. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto Jerry Rice, portavoce del Fondo Monetario Internazionale, afferma che l'incertezza dal voto sulla Brexit si farà sentire sulla crescita, rallentandola soprattutto in Gran Bretagna, dice, ma con ripercussioni anche in Europa e sull'economia globale, sottolineando che prolungati periodi di incertezza e il calo della fiducia dei consumatori e aziende comporta si traducano poi nella crescita più bassa. Gran Bretagna, colpo di teatro del sindaco di Londra, Boris Johnson, leader della campagna per la Brexit, che ha deciso di non candidarsi alla successione del dimissionario primo ministro David Cameron, quindi di non candidarsi come leader dei conservatori ma anche come prossimo premier. La favorita ora è la ministra dell'interno, Theresa May, e poi di questo parleremo in modo più approfondito più tardi qui a Effetto Notte, collegandoci direttamente con Londra. Dalla politica britannica alla politica italiana, dove c'è lo scontro sull'Italicum, e tornano all'attacco i 5 Stelle. Modificare la legge elettorale non è una priorità per il Paese. Il Movimento 5 Stelle si schiera contro i ritocchi all'Italicum. A riaprire la partita è la mozione alla Camera di Sinistra Italiana per rimettere mano alla legge elettorale prima che sia la Corte Costituzionale a farlo in ottobre. Il primo a scendere in campo è Luigi Di Maio. Poi un duro post pubblicato sul blog di Beppe Grillo alza i toni. Con l'ipotesi di modifica della legge elettorale e la posticipazione del referendum, si legge, Renzi ora vuole cambiare le carte in tavola perché ha paura di perdere. Un baro da due soldi e con la coda tra le gambe. Quando il movimento sarà al governo, assicurano i pentastellati, la legge elettorale sarà ancorata alla Costituzione per evitare che i partiti possano cambiarla quando fa comodo a loro. La partita a scacchi per le modifiche all'Italicum è aperta, con Forza Italia, Nuovo Centrodestra, UDC, minoranza PD favorevoli ai ritocchi. Renzi ostenta sicurezza e ribadisce: l'Italicum non si cambia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Milano oggi c'è stata la prima riunione della giunta del neosindaco Giuseppe Sala al quartiere Giambellino. Ha scelto il quartiere che più lo ha contestato per la prima riunione della sua nuova giunta. Ad accogliere Giuseppe Sala davanti alla casetta verde di via Odazio la protesta del comitato degli abitanti di Giambellino e Lorenteggio. Ci volete in periferia, ma siamo il centro della Milano che lotta, è lo slogan scandito dai manifestanti, pacifici ma contenuti comunque dalla polizia in tenuta antisommossa. Ad agitare gli animi è il gigantesco piano di riqualificazione cui saranno sottoposti a breve i caseggiati popolari della zona, occupati da tanti abusivi e abbandonati da decenni. Il neosindaco ha precisato che gli sgomberi, anche se urgenti, saranno eseguiti con buon senso, ma il timore è che il piano possa attirare gli appetiti degli speculatori. Secondo Sala, la riunione di stamane simboleggia l'impegno della sua giunta verso le periferie. Novità importante è il reddito di maternità. Da inizio 2017 le famiglie milanesi con ISEE inferiore a 20.000 euro in cui nascerà un figlio avranno una card caricata con 150 euro al mese per 2 anni per acquistare beni e servizi. Giuseppe Luongo, Radio 24, il Sole 24 ore. Spostiamoci di nuovo all'estero. Con l'attentato a Istanbul, il bilancio dei morti è salito a 43, 19 dei quali sono stranieri, e questa mattina c'è stato un blitz della polizia turca in 16 covi di sospetti terroristi. Sono stati 13 gli arresti, trovati i passaporti dei kamikaze, tutti stranieri. In Iraq intanto 250 jihadisti sono stati uccisi in un raid americano, e va detto che in 2 anni il sedicente califfato ha perso il 47% del territorio in Iraq e il 20% in Siria. Stati Uniti è ai massimi storici, interessante questa notizia per tutto il dibattito che c'è stato anche dopo le ultime stragi, ai massimi storici il consenso in America per un maggior controllo sulle armi. Secondo l'ultimo sondaggio della Quinnipiac University, il 54% degli americani vuole misure più severe sulle armi, tra cui controlli su chi acquista armi, oltre che il divieto di vendita a coloro che sono nelle liste dell'antiterrorismo, che sembrerebbe il minimo. 9 americani su 10 vorrebbero controlli su tutti gli acquirenti, quindi 9 su 10, e 6 su 10 sostengono che i controlli aiuterebbero a ridurre la violenza. Immigrazione, ancora un naufragio nel canale di Sicilia, una strage di donne, 10 le vittime, 107 i superstiti, un incidente che avviene proprio nel giorno in cui giunge ad Augusta, in provincia di Siracusa, il relitto del peschereccio affondato il 18 aprile 2015, provocando la morte, secondo le ultime stime, di circa 400 migranti. La peggiore tragedia di sempre. Le 10 donne si trovavano a bordo di un gommone che ha cominciato ad affondare quando si trovava a una ventina di miglia dalle coste libiche. Sul posto è intervenuta la nave 18 della Guardia Costiera, partita non appena ricevuto la richiesta di soccorso, e parleremo proprio con un comandante della Guardia Costiera più tardi. Siamo ai dati economici. Il potere d'acquisto delle famiglie è aumentato dell'1,1% nel primo trimestre del 2016 rispetto al precedente trimestre. Lo rivela l'Istat, spiegando che sull'aumento si riflette anche la dinamica dei prezzi. Per l'economia italiana arriva il quinto mese consecutivo di deflazione. A giugno, secondo i dati provvisori dell'Istat, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,4% su base annua. Dopo 4 mesi registrano invece un primo aumento i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che tornano a salire dello 0,1%. Cresce anche il potere di acquisto delle famiglie, che nel primo trimestre del 2016 si attesta al 2,3%, è l'aumento più ampio dal secondo trimestre 2007, cioè prima dell'inizio della crisi. A risalire è anche la propensione al risparmio delle famiglie. Sempre nel primo trimestre l'Istat segnala anche un lieve calo della pressione fiscale, scesa al 38,9%, e del rapporto fra deficit e PIL, che si porta al 4,7%. Il valore più basso dal 2000. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso la cronaca con l'uomo che a Firenze ha ucciso una transessuale e una donna ed è stato arrestato dopo una notte in fuga. Nessun rimpianto, così Mirko Alessi, 42enne di Firenze, ha detto in una delle molte deliranti telefonate ai carabinieri che lo stavano cercando. All'alba di ieri ha lasciato la macchina accesa, pronta per la fuga sotto casa della trans brasiliana 45enne con cui aveva una storia da anni e che lo ricattava chiedendogli soldi in cambio della segretezza della relazione. L'ha uccisa a coltellate e quando una ragazza di 27 anni, ospite in casa della trans, si è messa a urlare, Alessi ha ucciso anche lei. Una terza ragazza, 25 anni, si è buttata dalla finestra per scampare alla furia omicida e una volta in strada ha chiesto aiuto. Alessi, reduce da un matrimonio finito e padre di 2 bambini piccoli, è scappato in auto, ma la sua fuga è finita nel Senese, dove i carabinieri lo hanno identificato e arrestato. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo anche di femminicidi, perché è arrivata una forte risposta all'appello agli uomini contro la violenza sulle donne. Hanno firmato in più di 15.000 persone e ora arriva l'impegno di alcuni di loro per una giornata maschile contro la violenza sulle donne. Quindi si parla dell'arrivo di questa giornata maschile contro la violenza sulle donne. Lo dice in una nota la vice capogruppo del PD Alessia Morani, promotrice con Lucia Annibali, l'avvocata che era stata sfregiata dall'ex compagno, dell'appello agli uomini per prendere posizione contro la violenza di genere. All'appello, se un uomo firma, e questa è la risposta che hanno dato appunto moltissimi uomini, credo, dice Morani, che il modo più efficace per sconfiggere la piaga del femminicidio sia proprio l'impegno degli uomini. Solo insieme possiamo riflettere su quali siano le cause dell'origine della violenza. E poi una sentenza della Cassazione: la legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio. Per questa ragione la Cassazione ha dato ragione al ricorso straordinario di marito e moglie Gabriella C e Luigi D, non so se vi ricordate, di una frazione di Casale Monferrato, che da anni lottano per riavere la figlia che era nata a Torino nel 2010 e dichiarata adottabile dalla stessa Suprema Corte nel 2013 perché erano troppo anziani e considerati sbadati. Non so se ricordate questa storia. Comunque, giudizio non condiviso quello dal nuovo verdetto della Corte Suprema, che li ritiene genitori capaci e ricorda la loro assoluzione dall'accusa di abbandono di minore. E poi violata, questa è la storia di diritti violati di una coppia gay. Strasburgo condanna l'Italia, riconosciuti i danni morali per il rifiuto di un ricongiungimento familiare. La vicenda di Roberto Taddeucci e il suo compagno neozelandese Douglas McCalla, che volevano vivere in Italia ma non hanno potuto, sono stati costretti a trasferirsi in Olanda perché le autorità italiane si rifiutarono di rilasciare a McCall il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare. Oggi la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia a versare 20.000 euro a Roberto e Douglas come risarcimento per i danni morali subiti, sentenziando che quel rifiuto aveva costituito una discriminazione ingiustificata di una coppia omosessuale rispetto alle coppie eterosessuali, cosa che a questo punto non dovrebbe più accadere visto che è passata la legge sulle unioni civili. Su queste note di Dune Buggy hanno accompagnato il saluto a Bud Spencer, l'ultimo saluto, una folla di 3 generazioni lo ha salutato in Piazza del Popolo oggi al passaggio del feretro fino alla Chiesa degli Artisti. Molta l'emozione per il suo socio storico Terence Hill, che alla fine della cerimonia ha dichiarato: con Bud c'era la gioia e so già che quando ci rincontreremo le prime parole che mi dirà saranno: noi non abbiamo mai litigato. Per chiudere, il calcio in campo Euro 2016, la sfida tra Portogallo e Polonia, chi vince sarà la prima semifinalista. Per il momento conduce la Polonia 1-0 sul Portogallo e poi è ufficiale, Ibrahimovic conferma: giocherò nello United. Possiamo dire qui chiuso quindi il riassunto della giornata. Intanto voglio dare un primo sguardo ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure al numero 349-238-6666, che è quello per i WhatsApp e per gli SMS. Un tema che vi sottopongo questa sera è quello della rappresentanza della società nel suo complesso, anche nei media, anche in televisione, no? Dopo la polemica che c'è stata a Hollywood per gli Oscar, che erano stati tutti bianchi, neanche un nero, adesso la Francia ha proprio in discussione all'Assemblea Nazionale una legge che prevede che nei media, anche in televisione, ci sia una rappresentanza equa anche delle diversità, diversamente abili, anche delle minoranze, di chi è nero, di chi non è bianco, insomma. Dice: non sono quote, ma è un modo per ristabilire un po' di eguaglianza. Voi che cosa ne pensate? Pensate che sia una scelta opportuna, un'iniziativa giusta, e la vedreste bene anche in Italia? Per esempio, dice questo ascoltatore: non siamo ipocriti, vediamo brutti alla TV. La mamma ha 75 anni che non esce mai e guarda la TV, quando la porto fuori mi dice, vediamo un attimo, apro questo WhatsApp che finisce lì, evidentemente l'ascoltatore si era interrotto scrivendo il messaggio. Poi, per quanto riguarda, dice un altro ascoltatore, una traslazione italiana, quindi importarlo qui in Italia questa iniziativa, immagino un Sanremo a quote regionali oltre che estere, un grande lavoro di bilancino, sarebbe interessante questo esperimento. Voi continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bene, abbiamo aggiornato chi viaggia, Roberta Giordano sempre con voi, vi aggiorno invece sui vostri messaggi dopo il riassunto della giornata, tra poco naturalmente cominciamo a entrare nel cuore dei vari temi, dei vari argomenti con gli ospiti, però i vostri messaggi sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero per messaggio WhatsApp 349-238-6666. A proposito di questa legge che sta facendo il suo percorso nel Parlamento francese per cercare di includere nei media e nella televisione volti più diversi, non soltanto, dice, troppi visi pallidi in TV, dobbiamo cercare di rappresentare più realisticamente una società multiculturale. Che ne pensate e come la vedreste anche in Italia? Ecco, si è completato il messaggio di Daniele De Masi, che dice: non siamo ipocriti, vediamo brutti alla TV, la mamma di 75 anni che non esce mai e guarda la TV, quando la porto fuori mi dice: mai vista tanta brutta gente, così dice questo ascoltatore. E poi invece Giuseppe da Roma: al mondo siamo tutti uguali, non si devono fare discriminazioni. Gli altri messaggi a dopo, intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti se non avete acceso la radio puntualmente alle 21. Sì, di Bruxelles allo scudo da 150 miliardi per le banche italiane nel caso di turbolenze dei mercati. Poi il francese Moustier è il nuovo amministratore delegato di Unicredit, sarà al comando dal 12 luglio. Colpo di scena in Gran Bretagna con Boris Johnson, sindaco di Londra e principale sostenitore della campagna per la Brexit, che non si candida alla guida dei Tory, dei conservatori, e neanche quindi per la corsa a primo ministro. E intanto l'Unione Europea dice: siamo ostaggio dei tempi di Londra, si valutano delle contromosse per velocizzare, per fare in modo, insomma, che Londra si decida a uscire. Si accende lo scontro invece per la politica italiana sull'Italicum. Il Movimento 5 Stelle dice Renzi bara. Intanto a Torino si insedia la nuova sindaca Appendino, dice al centro ci sono i più fragili. Blitz nel covo dell'ISIS, 13 arresti per l'attacco a Istanbul dei giorni scorsi. Intanto centinaia di jihadisti uccisi in un raid in Iraq, e il califfato nel frattempo, il sedicente califfato, perde terreno sia in Siria sia in Iraq. Affonda al largo della Libia un gommone, sono morte 10 migranti, e intanto è arrivato ad Augusta il barcone naufragato nel 2015, quello di cui si diceva in cui erano morti 700 migranti, pare secondo le ultime stime che dovrebbero essere tra i 300 e i 400. E poi Euro 2016, i tedeschi ci temono, l'Italia punta sul gruppo, stasera Portogallo-Polonia, sono sempre 1-0 per la Polonia. Ritorniamo allora sull'attentato di martedì sera allo scalo Ataturk di Istanbul in Turchia, un attacco terroristico che è stato sferrato in questo aeroporto internazionale considerato uno dei più sicuri, dei più sorvegliati al mondo, che era pieno di viaggiatori, di turisti in quel momento. Il bilancio è salito a 43 morti, di cui 19 sono stranieri. A colpire sono stati 3 kamikaze. Non ci sono state ancora rivendicazioni, però ormai da più parti si pensa che effettivamente questa sia la firma dell'ISIS, tanto che oggi in Turchia c'è stato proprio un blitz della polizia in quelli che venivano considerati dei covi di sospetti affiliati all'ISIS, con 13 arresti. Ne parliamo con il nostro Marco Barbonaglia in diretta da Istanbul. Marco. Buonasera Roberta. Sì, buonasera. Gli arresti sono arrivati, poi secondo quanto riporta ora l'Hurriyet sono arrivati ora 22. È stata un'operazione condotta con 200 uomini a Istanbul, sia nella parte asiatica che nella parte europea della città, e condotta anche a Izmir. È un'operazione che rende più chiaro ancora, se ce ne fosse stato bisogno, la volontà di dare un ulteriore giro di vite, perché, come hai giustamente detto tu, manca una rivendicazione, ma tutti gli indizi portano all'ISIS, nel senso che oggi è anche la giornata dove sono emersi i dettagli sulla ricostruzione proprio della vita di questa cellula terrorista in città. Quindi questi 3 uomini che erano di nazionalità russa innanzitutto, ma di origine del Dagestan, un altro era uzbeko e l'ultimo kirghiso, poi si è parlato anche di un ceceno, Osman Vadinov. Di varie provenienze, insomma, Marco. Di varie provenienze, tutti va notato di quel volto della Jihad, che è quello con cui più ha fatto i conti Putin, e questo potrebbe anche essere, se venissero confermate tutte queste notizie, anche un elemento che dovrebbe far riflettere sull'immediato riavvicinamento tra Putin e Erdogan. E queste persone avevano preso in affitto un appartamento a Fatih, nel cuore islamico e conservatore della città, dove è probabilmente è anche facile confondersi anche con i tanti immigrati che oggi ci sono, più che altro arabi e siriani in particolare. E lì sono rimasti, pare, per 3 mesi, pagando sempre in contanti l'affitto di questo appartamento, fino a quando hanno preso un taxi e con 3 zaini e una valigia sono fatti portare all'aeroporto di Ataturk. Scesi dal taxi, si sono messi le cinture esplosive. Il piano originario, a quanto pare, particolare agghiacciante che viene aggiunto, prevedeva perché si sono divisi in quel momento, prevedeva che i 2 che dovevano entrare nello scalo dovessero entrare e prendere degli ostaggi, quanti più possibile, tenere in scacco le forze dell'ordine e alla fine farsi esplodere con tutti gli ostaggi, ma sono stati intercettati all'ingresso e quindi hanno dovuto cambiare i loro piani e sparare immediatamente, aprire il fuoco e fare un danno, forse, chi lo sa, forse minore. Diciamo, quantomeno contenuto, se così possiamo dire, rispetto appunto a quello che era il loro piano, no Marco? Se dici così, forse sì, il piano originario è ancora più agghiacciante, perché possiamo immaginarci se questi attentatori fossero entrati, avessero potuto prendere degli ostaggi e si fosse dovuto attendere l'intervento delle forze speciali, moltissimi ostaggi, insomma forse sarebbe stato addirittura peggio. Marco, questo comunque ci porta a pensare, anche se diciamo è pesante e amaro doverlo dire, che Istanbul, che l'aeroporto Ataturk di Istanbul è uno dei più sicuri al mondo, dei più sorvegliati, eppure è successo quello che è successo. Quindi ancora certo, una volta riflettere certo. sul fatto che evidentemente è molto difficile riuscire a intercettare per tempo, no? In situazioni come queste, indubbiamente, in luoghi così a rischio. Indubbiamente, perché nonostante i controlli già all'ingresso dell'aeroporto, che sicuramente come vediamo sono serviti in qualche modo, ma è ovvio che delle persone che entrano armate e pronte a sparare si trovano di fronte a degli addetti alla sicurezza, dei poliziotti, degli agenti che stanno controllando dei passaporti e passando dei bagagli al metal detector, che non sono ovviamente, non possono essere pronti, non hanno le armi in pugno, possono falciare la prima linea di difesa che c'è in aeroporto e inserirsi. Ora non dico che non serva questo, dico che non riesce a essere una barriera che blocca, e qui poi c'è tutta una discussione, c'è il modello israeliano che prevede controlli alle automobili già in un raggio molto vasto, però questo comporta una grossa spesa, un rallentamento enorme per l'aeroporto. Stiamo parlando di un aeroporto, uno scalo che l'anno scorso ha visto transitare oltre 61 milioni di passeggeri, il terzo d'Europa. Incredibile. Grazie Marco Barbonaglia, poi ci sentiamo nei prossimi giorni se ci sono ulteriori aggiornamenti. Ciao Marco, buon lavoro a Istanbul. Grazie a voi. Ciao. Buon lavoro, buonasera. That having consulted colleagues and in view of the circumstances in Parliament, I have concluded that person cannot be me. My role will be to give every possible support to the next Conservative administration. Cannot be me, non posso essere io il leader dei conservatori, tantomeno evidentemente anche il primo ministro. Stiamo parlando naturalmente da tanti giorni, inevitabilmente, del dopo Brexit, sia per le conseguenze, per vari aspetti, su tanti piani e anche per i vertici europei che si stanno susseguendo. Fra le conseguenze, come sapete, ci sono state anche subito, il giorno dopo dell'esito del referendum sulla Brexit, le dimissioni, l'annuncio almeno delle dimissioni del primo ministro britannico David Cameron, perché era lui alla fine che aveva indetto questo referendum, pensando anzi di consolidare la sua posizione, invece è andata diversamente da come pensava. Chi sarà dunque il suo successore, che dovrebbe essere nominato il 2 settembre? Beh, sino a qualche ora fa si pensava che il suo successore naturale potesse essere Boris Johnson, il biondo sindaco di Londra, un personaggio piuttosto controverso, grande gaffeur, dato che è stato il principale sostenitore di questa campagna per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Invece che cosa ha fatto? Colpo di scena, l'avete sentito oggi in una conferenza stampa, si è ritirato dalla corsa per diventare appunto il leader dei Tory, ma evidentemente anche ritirandosi dalla candidatura a primo ministro. Ne parliamo con il corrispondente da Londra di Sole 24 Ore, Leonardo Maisano. Ciao Leonardo. Buongiorno a tutti. Leonardo, c'era un giornalista. Buonasera, va bene, buongiorno, anche un'idea più solare ci dai. Qualche giorno fa, qualche tempo fa, un giornalista chiedeva a Boris Johnson: può un clown diventare primo ministro? Quindi in qualche modo è stato coerente, ha fatto, non so, questa piroetta Johnson. No, ma in realtà non è stato un ripensamento di Boris Johnson, non è che, come dire, fulminato sulla via di Damasco. Capito che lui non era la persona adatta per fare il primo ministro. Johnson si è ritirato perché il ministro della giustizia Michael Gove, che era il suo sparring partner in tutta la campagna per il referendum e che aveva promesso di non candidarsi, ma di fare il suo numero due, di sostenerlo in questa campagna verso Downing Street, improvvisamente, inaspettatamente, questa mattina, pochi minuti prima che Boris Johnson pigliasse il microfono per annunciare la sua candidatura, si è candidato lui, dicendo che lo ha dovuto fare all'ultimo momento perché si era reso conto che nel partito non ci sarebbe mai stato il consenso e il sostegno per Boris Johnson, perché è personaggio appunto troppo controverso. Colpo di mano quasi, lì, così, sfilato sì, il microfono. Alla schiena, infatti non a caso Boris Johnson nel suo discorso abbastanza argomentato ha fatto una citazione en passant con il discorso di Bruto, nel discorso di Bruto da Giulio Cesare di Shakespeare, siccome lui è un latinista, appassionato di classici, eccetera, è stato colto come un riferimento a quello che era stato successo. È stata una delle giornate più drammatiche della vita politica britannica, io la conosco da diversi anni perché ci sono stato in diverse fasi della mia vita, devo dire raramente mi è capitato di vedere una cosa del genere, anche perché del tutto, come dicevi, inaspettata. Senti, invece a questo punto sembrerebbe favorita, sia come leader dei Tories sia poi come prima ministra, evidentemente, la ministra dell'interno Theresa May? Esatto, sì, era favorita, anche perché questo colpo di mano, diciamo, non è che porti, voglio dire, Michael Gove esce maluccio, perché c'era stato anche spinto dal partito, tutto quello che vuoi, però insomma non è stata una bella mossa. E quindi Theresa May, che è stata molto abile, perché lei era nel fronte di Remain, però molto dubbiosa e tiepida, però si è tirata dentro come suo compagno in questa corsa verso la premiership, Chris Grayling, che è un ministro di Cameron, che era con Leave, anche lui tiepido, ma era con Leave. Allora, per, come lasciare, dire, per lasciare sì, sì, per lasciare, per i due fronti sono uno Remain, restare, l'altro Leave, lasciare. E quindi ha trovato una candidatura in qualche modo capace di unificare un partito a pezzi, e questo, come dire, dovrebbe essere l'indicazione più utile per rimettere insieme in coccia il partito conservatore. Bisognerà poi vedere i vari delegati come voteranno e la piega che prenderà. Leonardo, per chiudere, poi avremo modo di capire come procede questo percorso, siccome c'è questa legge in Francia, una proposta di legge per rappresentare in modo migliore la multiculturalità anche nei media, anche in televisione, cioè, troppi visi pallidi in TV, in Gran Bretagna c'è qualcosa del genere, non proprio delle quote, ma insomma qualcosa che stabilisca che ci voglia una rappresentanza anche delle minoranze, per esempio nei media? No, una quote non mi risulta che ci siano, devo dire la verità. C'è un'attenzione in generale a una certa rappresentanza, però in realtà la rappresentatività, per esempio, delle donne non è evidente nel Parlamento inglese. Sono una schiacciante minoranza. Nel governo c'è Theresa May e qualche ultimamente Cameron in un rimpasto ne ha tirata dentro qualcun'altra, ma insomma sono poche. Quindi, da questo punto di vista, la liberale Gran Bretagna è abbastanza deficitaria. Devo dire che però nei consigli di amministrazione, invece, nei consigli di amministrazione delle società, c'è una percentuale di donne superiore a quella che credo ci sia in Italia. Invece per la politica quasi ci possiamo confortare, ci sembra quasi di stare meglio. Pensa cosa bisogna pensare. Non c'è dubbio, in Italia c'è una rappresentazione, cioè, noi abbiamo metà del governo composto da donne. Grazie Leonardo Maisano da Londra. Ciao Leonardo, buona serata. E adesso i vostri messaggi, sempre a proposito di questa cosa delle quasi quote, perché insistono, in Francia non sono esattamente sulle delle quote, per ristabilire una certa eguaglianza. Emanuele scrive al 349-238-6666: la legge francese è fatta da parlamentari che si drogano, in ogni caso sarà un eccellente assist per la campagna elettorale della Le Pen. Un altro messaggio: basta leggi, non si può legiferare su tutto, è una questione culturale, non legale. E poi anche per esempio sulla pagina Facebook Luciano dice: anche in politica ci sono poche persone di colore o di etnia diversa, anche se hanno magari cittadinanza del paese dove risiedono. Giorgio: trovo che un risultato di questo tipo dovrebbe avvenire naturalmente, quindi avendo rappresentanti di ogni etnia e anche di diversità, dice, agendo non a valle ma a monte, affinché una visione multiculturale sia più meditata e interiorizzata. Benissimo, continuiamo tra poco con i vostri messaggi e anche con gli argomenti. Intanto vi dico che Polonia-Portogallo sempre 1-0 per la Polonia. Ci sentiamo proprio a momenti. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vi aggiorno immediatamente per gli appassionati di calcio che Portogallo-Polonia sono 1-1, aveva iniziato la Polonia con un gol dopo 3 minuti, adesso ha pareggiato il Portogallo. Le altre notizie poi ve le do tra pochissimo, intanto i vostri messaggi continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp e SMS. L'argomento di questa sera che vi ho lanciato è appunto di questa proposta di legge che sta facendo il suo percorso parlamentare in Francia per dopo le polemiche a Hollywood sugli Oscar troppo bianchi di quest'anno, cioè non ci sono stati neri che hanno vinto Oscar, di cercare di portare nei media, anche nella televisione, una rappresentanza che sia più multiculturale, più corrispondente alla realtà della società. E vi chiedevo appunto, dice la Francia, non si tratta di quote, dice il governo francese, bensì della necessità di rappresentare la società multiculturale in tutte le sue sfaccettature. Che ne pensate? Qual è la vostra percezione anche per quanto riguarda l'Italia? Fareste, sareste favorevole a un'iniziativa di questo tipo anche in Italia? C'è per esempio questo ascoltatore, ecco, è Fabrizio da Firenze, che dice: l'integrazione forzata e stabilita per legge determina insofferenza e recrudescenza dei nazionalismi. Si smette di imporre la multirazialità o la multiculturalità con provvedimenti dall'alto, si restituiscano e si tutelino le tradizioni locali, vero collante dei popoli, dice questo ascoltatore. E poi invece un altro ascoltatore dice: in TV servirebbe garantire una quota abbondante per umanisti intelligenti, e così dimenticata la RAI che proponeva al popolino, vediamo di aprire anche questo WhatsApp, che dice che proponeva al popolino del teatro classico in prima serata. A proposito della Francia, contemporaneamente la legge Urvoas riduce l'accesso alle presidenziali per i candidati non appartenenti all'establishment. E qui evidentemente questo ascoltatore, diciamo, si muove anche su altri piani di incongruenze della politica francese. Ora però vi ricordo ancora una volta le notizie più importanti, quando c'è una pausa magari qualcuno si distrae, quindi vi ricordo i titoli principali e poi andiamo al prossimo argomento. Banche. La Commissione europea ha dato il via libera a un piano di sostegno pubblico alle banche italiane in caso di turbolenza dei mercati. Intanto il francese Pierre Moustier, il nuovo amministratore delegato di UniCredit, sarà al comando dal 12 luglio prossimo. Gran Bretagna. Boris Johnson, leader della campagna per la Brexit, non si candida alla successione del dimissionario primo ministro David Cameron. Italicum, 5 Stelle contro Renzi, è un baro, dice Grillo, cambia le carte in tavola. L'attentato a Istanbul, il bilancio dei morti è salito a 43, 19 dei quali stranieri, blitz nei covi dell'ISIS, 13 gli arresti. Immigrazione, un gommone affonda all'arco della Libia, morte 10 donne, tra pochissimo ne parleremo. L'omicidio di Yara, attesa per domani la sentenza, Bossetti rischia l'ergastolo. E poi il Pentagono, che abolisce il divieto ai transessuali nelle forze armate. Il ministro della difesa Carter annuncia ufficialmente il provvedimento. Calcio, europei in campo, la sfida tra Portogallo e Polonia, che procedono per il momento 1-1. E torniamo a parlare ancora una volta di migranti e delle continue tragedie del mare. Nel giorno in cui nel porto di Augusta, vicino Siracusa, viene riportato il relitto del peschereccio affondato il 18 aprile del 2015 nel canale di Sicilia, considerata la più grande tragedia del Mediterraneo, recuperato questo relitto 3 giorni fa a conclusione di una complessa operazione che è stata coordinata dalla Marina Militare, per oltre un anno tra l'altro rimasto a 400 metri di profondità nel Mediterraneo, in cui morirono, si diceva in un primo tempo, 700 persone, adesso le ultime stime parlano di circa 300 persone. Oggi c'è stato, ebbene, in questa giornata un altro naufragio, un gommone carico di migranti che si è rovesciato a una ventina di miglia circa dalle coste della Libia. Sono morte 10 donne, tra l'altro vedevo un'agenzia che dice che arriveranno domani mattina a Catania i corpi di queste 10 donne morte nel naufragio dei migranti avvenuto oggi nel canale di Sicilia. 107 i superstiti sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera. Appunto, la Guardia Costiera che svolge ogni giorno un'attività encomiabile, molto pesante, molto delicata, senza l'intervento della quale queste tragedie avrebbero anche ben più gravi proporzioni. E quindi ne voglio parlare con Filippo Marini, che è capitano di vascello e portavoce della Guardia Costiera. Buonasera Marini. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Quindi questa ennesima tragedia, c'erano cattive condizioni del tempo, del mare, no? Questa mattina abbiamo ricevuto una chiamata di soccorso, una delle tante che arrivano ormai qui a Roma alla centrale operativa con i telefonini satellitari. Un gommone segnalava la sua presenza a circa 20-25 miglia a nord della Libia. Le condizioni meteorologiche erano assolutamente non buone, mare mosso, vento forte, 35-40 nodi, e in queste condizioni che la nave Diciotti della Guardia Costiera ha trovato un gommone semi affondato. La gente era già in acqua, i migranti erano già in acqua. 107 sono stati subito recuperati e portati a bordo, ma purtroppo 10 donne non ce l'hanno fatta ed erano già decedute, erano già ormai cadaveri e sono state portate a bordo della nostra unità. Poco dopo, poco lì distante, un altro gommone, questa volta in condizioni meno precarie, è stato subito soccorso e tutti i 116 gli occupanti sono stati salvati. Capitano Marini, per darci un'idea, la misura dei vostri interventi, anche dell'area coperta da voi, no, delle operazioni di soccorso, ci dà qualche dato? Allora, la Guardia Costiera Italiana, per legge, per normativa internazionale, Convenzione di Amburgo del 79 e la discendente normativa nostra, quindi legge di ratifica e DPR di esecuzione, gestisce e coordina tutte le operazioni di soccorso in mare all'interno dell'area che ci è assegnata, area di responsabilità, cosiddetta area SAR, Search and Rescue, ricerca e soccorso. Quanti metri quadri, cioè che proporzioni ha? Guardi, quest'area intanto circonda tutta la penisola, si estende verso il largo, sono 500.000 chilometri quadrati di mare, circa il doppio del territorio italiano, e da Roma, dalla centrale operativa nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, vengono coordinate le operazioni in mare, alle quali, è bene ricordarlo, oltre alle unità navali della Guardia Costiera, cooperano e collaborano con noi la Marina Militare Italiana, Mare Sicuro, le operazioni Mare Sicuro e UNAV for Med, che sono operazioni dedicate espressamente, le ONG, anche queste danno un grosso aiuto, i mercantili di bandiera italiana e straniera, che spesso vengono appunto dirottati nelle zone in cui individuiamo questi gommoni. E come più volte ho detto, siccome il tempo è una variabile imprescindibile, perché più si allontanano dalle coste libiche e più aumenta esponenzialmente il livello di rischio. Queste barche non hanno dotazione di sicurezza, sono stracariche di persone, quindi la galleggiabilità è estremamente precaria e l'abbiamo visto più volte come solamente spostandosi da una parte queste barche si capovolgono e i gommoni spesso affondano perché sono costruiti in casa, hanno un tubolare unico, non hanno camere d'aria, non hanno compartimentazione, ecco, questo è il termine giusto, quindi basta che si buchi il tubolare e automaticamente si sgonfia tutto il gommone e affondano, quindi bisogna intervenire presto e la presenza in mare di tanti soggetti coordinati dalla Guardia Costiera permette di dare una risposta efficace. Tra l'altro, Capitano Marini, per chiudere, ci sono stati ultimamente numeri record poi dati anche dal bel tempo, al di là poi di quelle che diventano le condizioni imprevedibili del mare, no? Nei giorni scorsi sono arrivati migliaia di migranti. Ma anche se in realtà non ci sono delle variazioni rispetto ai numeri, delle importanti variazioni rispetto ai numeri anche dell'anno scorso, diciamo che ci sono dei periodi in cui magari rimangono fermi, non partono, e periodi in cui invece si addensano, diventano maggiori le partenze, vengono concentrate in pochi giorni. Un dato che magari può essere indicativo: da gennaio ad oggi sono oltre 47.000 i migranti salvati e circa 331 le imbarcazioni che sono state soccorse. Quindi un'attività incredibile la vostra, davvero un grande lavoro. È un grande lavoro e oggi peraltro qui a Napoli, dove mi trovo in questo momento, c'è un importante evento che è il Med Forum, che è il forum dei servizi di guardia costiera. Oggi qui ci sono tutti i paesi del Mediterraneo, appunto, le guardie costiere dei paesi del Mediterraneo, che si stanno confrontando su diversi temi, appunto un confronto su esperienze, un confronto che serve a rafforzare anche il dialogo all'interno del bacino del Mediterraneo, con particolare riferimento poi a cambiamenti che riguardano il settore marittimo, quindi la sicurezza della navigazione, la protezione dell'ambiente marino, a tutela della risorsa pesca, eccetera. Quindi anche questo evento, al quale partecipa una rappresentanza come osservatori della Guardia Costiera Libica, è un evento estremamente importante che quest'anno è guidato dalla Guardia Costiera Italiana. Grazie Comandante Filippo Marini. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione, buon lavoro. Direi che ci avviciniamo senz'altro, anzi andiamo direttamente in viabilità, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra pochissimo, intanto ancora i vostri messaggi. Per esempio, ricorda Giuseppe

Eccomi, eccomi. Dario gira lì tra i calciatori, se la gode lì a Montpellier, dove c'è la Casa Azzurra, sì. Vero Dario? Anzi, siamo in viaggio verso Bordeaux. Già. Stiamo portando un po' avanti perché domani arriveranno anche gli azzurri. Noi e poi sabato la macchinata, la classica macchinata dei colleghi, perché questo Giro di Francia è una grande avventura picaresca, direi. E quindi senti Dario, allora i calciatori insomma continuano un po' a inorgoglirsi, a caricarsi, però c'era la Bild, giornale tedesco, che elencava 7 punti per cui la Germania batterà l'Italia. Letti questi 7 punti? Sì. Beh, devo dire neanche tanto, perché i media tedeschi fanno sempre così, inevitabilmente. Nel 2006 lanciarono la battaglia della pizza proprio alla vigilia di quella semifinale, e sappiamo come andò a finire, no? Con la nostra vittoria. Magari questa battaglia di retroguardia lanciata dalla Bild potrebbe avere lo stesso effetto apotropaico, diciamo così, dai. Cercano di fare campagna psicologica, insomma. Dario Ricci, allora buon viaggio verso Bordeaux, poi ci ricolleghiamo domani e poi sabato, il gran finale, insomma, per il momento vedremo come andrà. Grazie Dario Ricci dalla Francia, buon viaggio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Dario. E continuo i vostri messaggi, però adesso mi devo interrompere qui, ci risentiamo giusto per gli aggiornamenti, come sapete, alle 22.